programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui finalmente, aspettare una settimana intera poi per ritrovarci qui il sabato, ma... mi viene sempre in mente, no, quando ci ritroviamo, e sempre a proposito del titolo con il quale ho battezzato questo programma, che cos'è che ci dà il segno, la chiara conferma che non ci sono più le mezze stagioni. E ogni volta ne dico una, insomma, dagli spazzolini che non sono più quelli di una volta, tutti futuribili, non trovi più quello che hai preso il mese prima, ti è ritrovata bene, e invece ne trovi uno con lame rotanti, colori luccicanti e cose di altro tipo. Oppure il salone del divorzio, anche quello è un segno dei tempi, il primo salone del divorzio c'è stato settimana scorsa. Ma invece questa settimana, banalmente, mi soffermerò sul tempo meteorologico, perché noi scopriremo il colpevole durante la puntata di quello che sta avvenendo. Non ci sono più davvero le mezze stagioni, questo è un autunno inverno che dura da infiniti mesi, e penso che tutti ne abbiamo un po' pieni, diciamo, i resoconti, ecco, come possiamo dire. In ogni caso, iniziamo subito. Voi sapete che insieme facciamo sempre un bilancio delle notizie della settimana. 800 24 00 24. Questo è il momento per ritornare sui fatti della settimana con libere opinioni, potendo dire, cioè, nei limiti del civile, ovviamente, quello che ritenete opportuno su una qualche notizia che vi ha colpito in questi giorni, che può essere la notizia da prima pagina, ma anche il trafiletto, la piccola notizia, insomma, le vostre idee turbinanti sulle cose che accadono, che ci riguardano un po' tutti. 800 24 00 24. E poi, come sempre, non posso fare a meno di avere il mio opinionista estemporaneo, ogni volta diverso, ogni volta con la sua formazione, il suo punto di vista, il suo ambito di derivazione. E oggi mi incuriosisce questa cosa. Come potrebbe Beppe Tosco vedere la realtà? Ma buongiorno Roberto. Buongiorno caro Beppe. Ciao. Beppe è uno di quegli uomini che sta soprattutto, non solo, dietro le quinte, e che finalmente un grande uomo dietro una grande donna. Di solito è una grande donna dietro, ecco, un grande uomo, è vero? Beppe, e non solo dietro questa donna, immagino la tua compagna, tua moglie, altri. Sì, tutti insieme. Tutti insieme appassionatamente. Beppe Tosco è l'autore televisivo, soprattutto in particolare di Luciana Littizzetto, quindi quando Luciana mi fa morire da ridere a crepapelle, ogni tanto c'è un colpevole, cioè, sì, anche dietro le quinte. E poi ho letto nella tua biografia, quella essenziale, la quarta di copertina, che tu dice è autore televisivo, autore comico, eccetera, eccetera, però vive in posti isolati, come fosse una specie di contraddizione rispetto a quello che... E per godermi meglio le mezze stagioni. Le mezze stagioni, perché ci sono secondo te le mezze stagioni? Secondo me in campagna ci sono ancora. Cioè, come dici che il cielo si fraziona, sulla campagna mantiene, insomma, e anche poi... Guarda, a Torrita adesso è periodo di asparagi selvatici, a Milano non sanno. Ma ho sentito che c'è un festival dell'asparago selvatico, sarà mica lì a Torrita. Non so se cantano, però può darsi che ci sia un festival, sì, dove probabilmente li mangi. Ma il festival degli asparagi... Senti, sai che mi veniva in mente un titolo per la prossima tua trasmissione? Sì. Sostituirei non ci sono più le mezze stagioni con i posti più belli sono tutti dei preti. Insomma, questo, non so, che è un altro modo di dire che posso pensarci, o non c'è niente come l'acqua quando uno ha sete, anche vero? Questo mi sembra già più alla portata, diciamo. Beh, piuttosto subito vedete, ecco, quindi la sua angolazione sulle cose già mi stupidina. Dà un consiglio non parli con una persona seria, chi ascolterà delle cose di una persona poco seria, quindi sappiatelo sin dall'inizio. Se mi sentite un po' stravagante nei primi momenti è perché ho la cuffia che viene e va, e appena è possibile, naturalmente, non ci sono più le mezze stagioni, evidentemente c'è qualche interferenza con questo tempo che non vuole cambiare anche dentro le mie cuffie. Quindi Beppe Tosco ci accompagnerà adesso tutta l'ora insieme a voi, alle vostre opinioni, al numero verde 800 24 00 24. Ma quello che è importante dire anche che ha pubblicato da poco un libro, si intitola È finita la benzina, pubblicato da Mondadori, e finalmente Beppe Tosco riscatta un qualcosa, un tabù, quella cosa quasi che non si nota, se non i bambini si divertono spesso anche per una questione, non so, onomatopeica, ecco, sì, a ripeterla, e, diciamo, la pupù, insomma, tu riscatti finalmente, avrà un valore civile, economico nel futuro. Beh, ma è un angolino del romanzo, il romanzo racconta come sarà il nostro futuro tra 30 anni, e quindi in realtà è un modo per raccontare la realtà di oggi e immaginare come certe cose che adesso stanno nascendo, si modificano, diventeranno tra come potrebbero diventare tra 30 anni, e c'è anche questa cosa che tra 30 anni probabilmente una forma di risparmio sarà quella di depositare le proprie cose in più, diciamo gli scarti del corpo umano, in modo da farsi rimborsare in piccoli centesimi, perché verranno utilizzati sia la pipì che le cose più consistenti. Però anche questo sarà meritocratico, chi ne produce di più ovviamente. In qualche modo sì, ma soprattutto chi avrà la costanza di andarla a depositare nei posti in cui può ricevere in cambio un accredito su una piccola carta magnetica. E poi Beppe Tosco ha trovato anche il modo di risolvere in un prossimo futuro tutta questa storia di body scanner, no? Tutti i controlli negli aeroporti attraverso i vestiti, le costole, le cose. Invece lì si girerà direttamente proprio come nudi. Mamma. Ma tu pensa che il libro io l'ho scritto perché ho avuto un brutto incidente in montagna e mi sono rotto una vertebra. Questo un anno e mezzo fa. Però ti vedo in piena salute, in piena forma. Sì, sì, ha ripreso tutto benissimo, grazie forse anche a aver passato il tempo a scrivere invece che a lamentarsi. E quindi un anno e mezzo fa un mucchio di cose che sono successe in quest'ultimo anno e mezzo si sono stranamente realizzate. Cioè io ho ragionato e dicevo, tra 30 anni sarà così tanta così tanti gli attentati o riusciti o mancati da parte dei 1000 terroristi che ci saranno, che qualcuno finirà per nascondersi l'esplosivo nelle mutande. Ecco perché adesso dopo tre l'hanno fatto, ma nell'intestino mi sembra addirittura 2, 3, 4 settimane fa tra le mutande, qualche mese fa nelle mutande, perché c'era la fotografia di queste mutande aperte in due, chissà il poveretto come era. E da allora in poi 5 o 6 cose si sono verificate. Parlo per esempio del caricabatterie, che come tu sai ogni cellulare ha il suo con un buchino diverso. Io ne ho fatta qualche pagina. Così tra amici non ci si può scambiare. Non esatto, e adesso pare che vogliano fare prima o poi un caricabatterie universale. Sì. E questo e altre analogie. Insomma è un libro, è un romanzo, è una storia anche d'amore di un gruppo di persone che si trovano bloccati in un aeroporto, cosa che peraltro è successa anche a me, anche questa, per via del vulcano islandese. 12 giorni sono rimasti. E bivaccano lì in questo aeroporto creando delle amicizie, conoscendosi, e poi di lì nascono una serie di avventure, perché, e qui il titolo lo dice, finita la benzina. Sderenato e surreale. Questo dice Luciana. Da Luciana Littizzetto il tuo libro. È finita la benzina, mentre noi ne abbiamo di benzina, quindi, fino alle 15, qui si va avanti, vuol dire Beppe? No, e quindi abbiamo molta benzina, andiamo avanti. Aggiungete fuoco alla benzina, o benzina al fuoco, vedete voi, all'800 24 00 24, e come sempre lo sapete che per avere più punti di vista, quello dell'ascoltatore, quello dell'opinionista estemporaneo, eccetera, abbiamo anche quello di una collocazione, una postazione extraplanetaria. Riflessioni da Marte. Ultimamente qui da Marte non è che si riesca a capire bene come stanno le cose sulla Terra. Prima, a parte la distanza, ma prima la nube vulcanica che offusca tuttora l'atmosfera e impedisce di guardare giù, come si diceva, verso il globo terracqueo in modo nitido. Poi l'oleosa marea nera che confonde le acque, di cui la frase di un celebre politico in questi giorni che ha detto proprio vada a farsi confondere. Marea nera che tra l'altro, per dire quanto sono a volte profetici, intellettuali e cantautori, a parte Beppe Tosco, era stata prevista questa marea nera già dagli anni 70, da colui che cantò «O mare nero, mare nero, mare nè, tu eri chiaro e trasparente come me». Una lungimiranza straordinaria. Insomma, sarà per questa nebulosa aerea, sarà per questo oleoso mare nero, ma da qui, da Marte, pare di non capire più molto ciò che avviene sul pianeta Terra, specie sul suolo italico. Per esempio, pare ora che sia possibile in Italia che qualcuno compri una casa di apprezzabile metratura, di considerevole prezzo, con uno straordinario panorama, e la regali a qualcun altro senza che il fortunato ricevente sia consapevole di come si sia ritrovato lì per lì, tra le mani e sotto i piedi, un così generoso cadeau. E poi dicono che i sogni e i grandi gesti magnanimi non sono più possibili in quest'Italia cinica e bara. E avviene sempre nella penisola, dove già vengono eliminate in famiglia almeno 2 donne a settimana, che un padre si senta in diritto di fare personalmente una visita ginecologica casalinga alla figlia adolescente per saggiarne la verginità. Venendo prima assolto, del resto la figlia è sua e se la gestisce lui, avrà pensato il comprensivo giudice, o forse non avrà mai potuto soddisfare il tapino il suo desiderio di fare o di giocare al dottore, quindi Quindi dicevo, dopo questa esplorazione viene prima assolto, poi si becca qualche mese di carcere che molto probabilmente non sconterà mai. Qualcuno poi multa le donne islamiche che girano imbozzolate per le strade italiane in un baccello nero, ma poi nessuno dice niente se in seguito i mariti integralisti tuonano: bene, non posso mummificare mia moglie da capo a piedi quando esce da casa? Allora non la farò mai più uscire. Da qui evidentemente la faccenda non è più importante. Tutto ciò mentre un tribunale inglese ha decretato proprio in questi giorni: vietare i pantaloni a vita bassa viola i diritti umani. Non si capisce più nulla, bisogna dire, sul vostro pianeta. Non solo non ci sono più le mezze stagioni, ma il mondo pare proprio vada alla rovescia. Ma forse i più diranno: cosa c'è? Cosa c'è di strano? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? E sono veramente tante le notizie ritornando sulla Terra. Vi potete veramente sbizzarrire tra la crisi greca, le borse che mandano miliardi in fumo, le agenzie di rating che ogni tanto insomma la sparano grossa e fanno anche qualche danno. Del resto sono delle agenzie private che si occupano di cose anche pubbliche riguardanti gli stati di grande interesse e grande delicatezza. E poi le dimissioni di Scajola, le elezioni in Gran Bretagna che forse mettono in discussione per la prima volta il bipolarismo proprio là dove è nato e dove è stato consacrato, questa maggioranza relativa dei conservatori che però non potranno governare perché in realtà qui ci sono un po' tre carte che girano. Insomma, sono veramente molte le notizie e mi piacerebbe chiedere a Beppe Tosco, per esempio, sì, prima di sentire la viabilità, che cosa a parte i titoli che stai leggendo dai giornali, adesso stai guardando Repubblica, cosa ti guardi con insistenza? Cercavo le elezioni inglesi per capire chi dei tre. Invece riguardo agli assegni con cui vengono pagati, senza che uno lo sappia, le case, sono cose che secondo me possono succedere. Con Luciana ci abbiamo lavorato e domenica lei ne parlerà. Per esempio, lei è stato offerto una volta... A che tempo che fa? Sì, le è stato offerto un ghiacciolo alla menta in una spiaggia di Loano e non ha mai capito chi era stato a pagarglielo. Cioè, se l'è trovato lì, già, sì, neanche gliel'han sciolto, portato, era proprio... Sì, gliel'ha portato, ma lei ha capito dopo che lei non avrebbe dovuto pagare nulla, che era stato pagato da qualcun altro. Io ho detto, aggiungi magari che se per caso gliel'hanno pagato in 80 assegni, probabilmente è stato anemone. È possibile che anche si occupasse di ghiaccioli, per esempio, no? Chi lo sa? Fiutando il certo, business. Certo, 80 assegni per un ghiacciolo, ma anche per una casa sono tanti, ha voglia scriverne. È una cosa... Si erano consumate un po' di penne, dici? E anche di blocchetti. Ma pensa, non lo sapeva. Succede. Succedono queste cose, quindi si diceva, ma succede anche che sia stato varato il nuovo codice della strada, anche se appunto poi c'è stato l'iter parlamentare, adesso sembra che in realtà prima che queste nuove norme divengano legge ci saranno tutte poi delle questioni un po' più complesse prima che sia varato in senso definitivo. Però fra le altre cose, ecco Beppe, ti volevo dire, c'è questo emendamento che ha fatto un po' discutere, cioè di fronte a un ubriaco alla guida che viene fermato, sì, ovviamente ritira la patente, ma avrà diritto alla guida per 3 ore al giorno. Questo mi pare sia un emendamento della Lega. Perché non possiamo impedire al poveretto di raggiungere il posto di lavoro durante il giorno. Quindi io vorrei capire da te, che mi pare uomo intelligente, come si farà a stabilire quali sono esattamente le 3 ore e come lo si seguirà? Si metterà una specie di telecamera per capire se proprio solo quelle 3 ore gli si darà la benzina giusto per viaggiare? Come si fa a stabilire? E ci sono tante ipotesi adesso che mi vengono in mente. Una potrebbe essere quella che prima lo si fa bere. Ma molto, per cui queste 3 ore lui non le utilizza perché non riesce neanche a partire, non trova dove è il cambio, dove è la marcia. E resta quindi ecco, siamo sicuri e in questo che non modo fa più di 3 non ore. Fa danni, no. Soprattutto. Altre possibilità, bisogna che ci pensi un po', perché noi torinesi di solito abbiamo bisogno di riflettere molto, siamo quelli che la battuta ci viene 3 giorni dopo, dopo che c'è stata fatta la provocazione. L'importante è che abbia il suo effetto. Sì, stavo pensando che si potrebbe applicare questa regola inventata da pochi giorni delle 3 ore anche per altri tipi di reati, perché guidare mi pare ubriachi è reato. Sì, quello è reato, ti sequestrano la patente, però quindi, dicevamo quindi per esempio questo... un rapinatore a mano armata può passare 3 ore al giorno col passaporto montagna dentro una banca e quello è consentito in qualche modo. Sì, dopo sfogliamo un po' il codice, ma bisognerebbe vedere tutti i reati e vedere come si riesce a applicare questa norma anche per altre cose. Potrebbe essere un'idea, dici, magari lanciata così si scopre che ha 1000 possibilità di applicazione. no? Questo è il codice della strada. Che ne pensate voi di questa nuova norma che è passata, che chi viene fermato in stato di ebbrezza viene naturalmente ritirata la patente, però può guidare 3 ore al giorno? Come stabiliamo quali sono le 3 ore? Come stabiliamo che proprio 3 ore guida e non di più? Questo è uno dei possibili argomenti al numero 800240024, ma direi di cominciare a dare spazio alle voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori. C'è Orlando da Alessandria. Ciao, buongiorno Roberta. Buongiorno Orlando, non ti sento furioso per fortuna, sei di buon umore. No, sono molto tranquillo. Volevo fare un intervento finalmente sulla Radio 24, che la seguo sempre, no? Su questo assunto qua di quello che è successo a questa ragazza a Novara con il suo burka. Tu sei spagnolo o argentino, Orlando? Di dove sei? Né spagnolo né argentino. Sudamericano. Dal Cile. Dal Cile, sì. Ecco, allora, io penso che una cosa ridicola è il ricatto, la manipolazione delle persone, la forma canita nella quale spingono questi settori politici a delle persone normali a soffrire di questa maniera. Cioè, io mi immagino una persona extracomunitaria che il suo marito va a lavorare perché le donne musulmane non lavorano e che se ne piglia 1200 euro al mese per poter accampare, perché questi sono gli stipendi che girano in giro. E allora mi dica lei, di dove tira questo signore qua 500 euro per pagare? E con chi mangia? Orlando, tu quindi mi stai dicendo che questo povero marito integralista che copre la moglie tutta così imbozzolata prende già poco e deve poi pagare la multa. Ma il problema non è forse che questa donna non deve girare in questo modo, perché essendo essere umano mi pare che ci possa essere una parità di diritti, o lui invece deve aver diritto ma non di coprirla ma non di pagare la multa? Non ho capito, Orlando. Allora, io ti spiego una cosa. Sì. Ogni cultura viene rispettata per quanto quello che è, come l'italiana viene rispettata per quello che è. Orlando, che le donne vogliono andare nude, il problema va bene. Che le donne vogliono andare coperte, va bene. Ma dici che è lei che vuole andare coperta così che quasi non ci vede per strada? È lei che vuole andare coperta così? È lei, sicuramente lei. Sì. Gioiscono. Si sente bene coperta. Va bene per me. Orlando, sai qual è il problema? Una persona seminuda anche mi sta bene. Basta semplicemente che queste estremità della legge, come la ridicolizzano, smettano da una volta per tutto, perché è impossibile. Io non ne posso più. Quando sono arrivato qui in Italia la prima volta, era il primo paese del mondo, ho trovato dove c'era un tipo di umanità che non esiste in altri posti. È vero. Perché non c'è niente da fare. E l'italiano è razzista perché viene influenzato. E contemporaneamente non è affatto razzista. Sono 14 anni che abito qua in Italia e ho conosciuto un sacco di persone. Io le dico che l'italiano non è razzista di natura. Assolutamente. Orlando, questa cosa mi convince, poi sono le contraddizioni italiane effettivamente, però devo dirti che troppo spesso, continuamente, poi soprattutto da parte degli uomini, c'è questo confondere il rispetto delle culture con il dire sono fatti loro, le donne saranno, che poi la cultura altra in realtà, quando si dice è la loro cultura, è la cultura di metà di quel popolo, degli uomini che la impongono anche alle donne, no? E spesso sotto questa espressione rispettiamo le altre culture c'è un po' il rendere tollerabile, voler rendere tollerabile qualcosa che è assolutamente intollerabile. Quando si toccano i diritti civili non si può dire è la loro cultura, ci deve essere una parità di diritti e di doveri. Poi questa è la cornice, all'interno poi di usanze, di cose che non devono ledere però i diritti di nessuno. Uno può mangiare il maiale o non mangiarlo, può mettersi le ciabatte per girare un altro tipo di scarpe, però non può essere, capisci, la copertina della cultura altra che copre invece l'intollerabile. Che pensi, Beppe? Sono d'accordo. Sto pensando alle... Ma intanto perché questo signore... Scusa, sei ancora lì? Il nostro amico cileno? No, no, Orlando no. Orlando, non c'è più. Non c'è più. Ero curioso di capire questa cosa. Per lui va bene se sono vestite, se sono nude, non tiene conto del fatto che magari se sono vestite troppo non è una loro volontà, ma è un'imposizione. Quello che cercavo di dire Orlando, no? Però così veramente... come succede che alle volte le donne siano vestite poco, anche lì non per una loro scelta, ma per un'imposizione sempre maschile. Parlavamo del corpo delle donne, il libro, il documentario di Lorella Zanardo proprio la scorsa settimana, no? Che ha fatto questo documentario l'anno scorso, che poi è diventato un libro, sul fatto che in Italia ormai il corpo delle donne, per non andare anche nel resto d'Occidente, viene rappresentato soprattutto in televisione in un certo modo, e tu puoi accedere alla televisione, ai certi programmi come donna, soltanto se ti comporti e ti poni in un certo modo piuttosto svilente, anche se qui uno può dire vabbè, qualche non ti eccezione obbligano c'è, con la però pistola. Sì, certo. qualche eccezione c'è, però è così. Sì. Però insomma, per la maggior parte è così. 800 24 0024 c'è Nicola da Torino. Nicola, però dovresti spegnere la radio, sento un se no fai il leco, Nicola, sì, da Torino. Il leco. Pronto, salve, complimenti sia a lei, signor Roberto, perché ascolto volentieri sia lei che altre trasmissioni comunque, e anche al signore. Buongiorno. Grazie, complimenti per le sue battute che riesce a stupidine, a morale, ma a meno ragionare. Male. Anche in modo sarcastico, ma ti fa ragionare. Io volevo parlare proprio di una notizia che ho sentito questa settimana, che gli italiani facciamo le leggi, poi troviamo sempre l'inghippo, troviamo sempre lo svicolare da qualche parte, e questo vale sia per noi piccoli, purtroppo anche noi cerchiamo a volte di svicolare, lo dico proprio perché anche noi cerchiamo a volte. Noi piccoli, Nicola, no, intendi pesci piccoli e pesci grossi, noi piccoli. Esatto, ma perché vediamo un po' che tutti svicolano, a volte anche noi siamo tentati perlomeno di svicolare. Comunque ho sentito questa settimana una notizia molto seria comunque, però ci fa ragionare molto. Speriamo che per la lì stesso magari sia anche... l'ho sentito alla RAI, quindi non è il giornale. Che cos'è? Perché il ministro Tremonti sta facendo di tutto per non farci andare nella cosiddetta, come dice il stesso, M. E però il patto di queste SPA che stavano facendo per il Ministero della Protezione Civile era un modo, perché il Tremonti ha messo questo patto di stabilità comuni, è stato tutto per riuscire a starci dentro, e questa SPA invece aveva libertà di prendere soldi come voleva, anche se Tremonti aveva messo un veto. E questo è veramente da ragionarci. E poi è venuto fuori tutto il caos che è venuto, perché pigliavano milioni e milioni di euro per tante cose. Voi sapete gli ultimi avvenimenti anche. Cioè, tu, Nicola, ti riferisci al fatto che qualche mese fa c'era la possibilità di fare della protezione civile un SPA, quindi di privatizzarla, e poi tutta l'inchiesta sugli appalti, di questo stai parlando? Per girare la legge Tremonti del patto di stabilità, è questo che mi ha colpito molto. Lo stesso governo, tra lui e lui si pregano i soldi, mi scusi il termine. Era un modo per pagare i soldi a Tremonti senza che lui, e Tremonti è molto arrabbiato per questo, non ne dico altro. Vi faccio molti auguri per la trasmissione e per la simpatia anche. Grazie Nicola, ciao. Grazie. 800 24 0024 sempre. Ma senti, mi viene in mente una cosa. Sì. Adesso un periodo in cui gli amministratori, anche qualche politico, per qualche piccolo problema di economia, come nel caso della casa, ma danno le dimissioni. E questa cosa la ritengono esaustiva, anzi, le danno con un po' di fatica dicendo do le dimissioni solo e esclusivamente per avere il tempo per difendere. È la seconda volta, tra l'altro, che da Scaiola, quindi ecco, un record. Ma quello diciamo, in di cui nessuno parla, ma non si tratta nel caso di un reato, e quindi non c'è anche poi il caso di rischiare di andare in galera. E di questo non si parla. Sembra che i politici, in generale, quando mancano in qualcosa, quando fanno qualche piccolo truschino, diciamo, a Torino, è sufficiente poi allontanarli. Ma un cittadino normale, se fa una cosa del genere, di solito viene processato e poi forse mandato anche in galera, no? E di sì, questo nessuno... In questo caso diciamo che per il momento, per il momento, per carità, io parlo in generale, non è certo ancora indagato Scaiola. Certo, è una storia di una compravendita un po' strana, un po' controversa, e bisognerà senz'altro chiarire, ma insomma, nel caso ci dovrebbe essere anche qualcosa di penale per una cosa del genere. Se fossero gli estremi, mai, sì, penso proprio di sì. 800 24 0024 Fabrizio da Roma. Sì, buonasera. Volevo fare i complimenti innanzitutto per la trasmissione e per il suo ospite. Sei sincero, Fabrizio? Quante volte ascolti in un mese Non ci sono più le mezze stagioni? Quando sono in macchina, come ora che sto lavorando e mi tenete compagnia, dunque è ancora più propositivo. Bene, se lavori il sabato, se promosso. Lavori la domenica, quindi... Sicuramente, purtroppo bisogna lavorare anche di sabato. No, volevo intervenire sull'argomento del burka. Io diciamo che ho sentito dire appunto di questa multa che è stata effettuata di 500 euro, sì, poi anche nel Biellese, poi anche in tre posti mi pare questa settimana in Italia, poi nel Piemonte soprattutto, nel Piemonte. Io vorrei fare solamente una piccola riflessione, no? Diciamo nel contesto e nel rispetto poi di tutti noi, della società, io credo che il mondo stia andando, che lo si voglia o no, in un senso di integrazione mondiale, La nostra storia ce lo insegna, siamo stati noi stessi emigrati con tutti gli annessi e connessi nel mondo. Ora, le istituzioni che dovrebbero rappresentare appunto questo incentivo all'integrazione, mettendo una multa del genere senza nessun senso, perché noi abbiamo il diritto di chiedere se questa persona ha più o meno voglia di tenere questo burka o se è stato imposto, ma io credo che una persona abbia tutto il diritto di portarlo, ma, o non portarlo. Ma, quindi diciamo, scusa, di questo pregiudizio, perché è un pregiudizio di dire no, potrebbe essere il marito che glielo impone, e se non lo fosse? Fabrizio, senti questa cosa. Allora, mi pare che fosse stato nel caso di Novara, proprio questa settimana. Io parlo sempre di notizie fresche come le uova fresche, di questa settimana, il sabato. Facciamo un bilancio di notizie della settimana che si sta chiudendo. Il marito ha detto immediatamente, quando ha ricevuto questa multa, ha detto: bene, allora non la farò più uscire di casa se non la posso coprire. Capisci? Che cosa ti dice questa cosa? Sicuramente può essere, mi dice che non sta a me dire se questa persona è o non è, perché non la conosco e nessuno di noi la conosce, lo abbia detto. Io credo che sia stata pure una risposta di rabbia, di istinto, di dire: bene, allora se l'Italia ci multa perché mia moglie va in giro con il velo, io non la farò più uscire di casa. Quindi un po' come dire: se il mio cane deve portare la museruola, non deve portare, allora io non lo farò più uscire di casa. È un po' questo, no? Avere ma come proprietà un gatto, cane? Una pecora, perché un cane. Cane? È la perché il mio cane? Mi sembra che la donna si poteva esprimere e non è sì, espressa sì. A favore. Perché il mio cane? Cioè, ecco, trovo che... Appunto... Quindi, secondo te, Fabrizio, nel caso di una donna che esce col burka, cioè quindi significa coperta dalla testa ai piedi e non si vedono neanche tanto gli occhi perché c'è una piccola grata, secondo te una donna così ha tutta la possibilità di esprimersi, no? Nel caso si chiedesse davanti al marito... Ma perché no? Perché una donna che esce, diciamo, seminuda, ecco, quel signore del Cile ce l'ha in sé, seminuda ha qualcosa in più... di una persona che si veste per tradizione, per piacere. Fabrizio, sai qual è la questione? Ecco, io poi su queste cose un pochino mi accendo, anche se in genere sono molto pacata. La questione è Roberta che comincia a fare gli occhi cattivi. No. È che se fosse il contrario, cioè gli uomini danno talmente per scontato le cose come sono, come fossero piovute direttamente dal cielo, se fosse che fossero gli uomini coperti dalle donne, a volte per scelta, ma soprattutto coperti dalle donne, dalla testa ai piedi, o se ci fosse l'infibulazione maschile, no? Quindi le mutilazioni genitali come avvengono su milioni di donne al mondo e anche quelle che poi immigrano in Italia, se toccassi agli uomini che al loro membro gli facessero, gli tagliassero, gli aprissero, allora lì forse non credo che tutta questa tolleranza e questa comprensione ci sarebbe, Fabrizio, ma sarò io che sono semplicemente solo polemica. Ci fermiamo perché c'è la pubblicità, poi Beppe Tosco, Beppe vuoi fare un... Solo una piccola cosa, ascoltavo la frase e c'è qualcosa di più, cioè io capisco cosa dici tu, Fabrizio, cioè se viene da me un tizio, un ufficiale giudiziario, mi dice c'è una multa perché sua moglie è uscita, eccetera. Quello che mi suona strano è che lui possa permettersi di dire e allora non la faccio più uscire. Ma lei dovrebbe uscire quando vuole. Il cane posso decidere di tenerlo in casa e non lo faccio più uscire. E ancora ci sarebbe da discutere. Ma una donna dovrebbe avere la possibilità di uscire di casa quando vuole. Se il marito è d'accordo o meno, questo non dovrebbe essere importante, no? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano del resto se insomma un marito dice mia moglie se non può mettere il burka non la farò più uscire di casa? Vi lancio questa provocazione perché ben 3 volte in questa settimana è successo che siano state appioppate delle multe a Cossato e poi nel Biellese e poi a Varallo e a Novara a donne che giravano imbozzolate, insomma, questi baccelli neri irriconoscibili, per una questione di sicurezza uno può dire, no? Però io direi ancora prima per una questione culturale e di diritti civili. Se no, dove andiamo a finire? 800 24 00 24, Roberta Giordano con voi, al mio fianco, anzi di fronte a me, un bell'uomo, un gran bell'uomo che è Beppe Tosco, il principe degli autori televisivi italiani, è l'uomo che fa grande, già lo è lei di per sé, ma la fa ancora più grande Luciana Littizzetto perché scrive per lei, è appena pubblicato, è finita La benzina, un po' una metafora anche insomma del... se vogliamo della nostra vita, della nostra civiltà, sì. Prima o poi sta benzina finirà in tutti i sensi. Beh sì, è proprio una metafora, cioè finisce la benzina, non abbiamo più niente, abbiamo toccato il fondo, stiamo raschiando il fondo del barattolo e quando capiterà una cosa come come questa, quando finirà la benzina e lì bisognerà essere creativi come Beppe Tosco, si e tornerà a forse trovare... a fare una vita più chissà. Io voglio ricordarvi però anche questa cosa, che Beppe Tosco sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino, sì, venerdì prossimo, il 14. Radio 24, voi sapete, il Salone va dal 13 al 17 maggio a Torino, Radio 24 sarà lì con i suoi programmi. Io personalmente col mio programma Non ci sono più le mezze stagioni sarò lì sabato 15 maggio, sempre in diretta dalle 14 alle 15. E quindi se ci troviamo... E venerdì c'è Luciana con me che presenta il libro. È tutto un pullulare, insomma, di idee, di cose belle, creative, eccetera. Anche se si dice gli italiani non leggono più o leggono poco, poi si va al Salone Internazionale del Libro e non pieno si capisce, gente, sì. Proprio non si riesce quasi non a camminare. Non ci sono neanche una gli stuzzichini pazzesca da assaggiare come infatti, nelle fiere gastronomiche. Infatti, che è un grosso richiamo quello, no? La mortadellina, cosa. No, pure se non si mangia, ognuno poi si prende i panini lì dove si comprano, eppure c'è questa grande entusiasmo. Davanti c'è Italy. Italy. Ah sì sì, Italy. Quello di Torino, sì, era stato anche mio ospite nella scorsa edizione di Vinitaly. Comunque insomma veniteci a trovare dal 13 al 17 maggio, Padiglione 2, Radio 24, io ci sarò il sabato 15 maggio. Sentirei un'ascoltatrice che ha un nome particolarmente originale, se leggo bene, 800 24 00 24, un ascoltatore, un nome Calenda che non ho mai sentito, da Pordenone, chi c'è? Esatto, buongiorno. Ah, ma il tuo cognome, Calenda? Questo è il mio cognome, sì. Ah, il tuo cognome? Ah, no, per la prima volta. Non sono le calende greche. Non so, meno male, perché quelle prima che arrivano siamo a posto. Invece noi parliamo qui, ora, nel concreto. Di cosa ci vuoi parlare? Volevo intervenire sull'argomento del codice della strada. Del codice della strada, sì. Esatto. E volevo fare una riflessione con voi e quindi mi sono interessato a questo... a questo emendamento che è stato proposto dalla Lega. Lo ripeto, perdonami, lo ripeto, posso sapere il tuo nome è segreto? Luca. Luca, ecco. Luca. L'emendamento prevede che chi colui viene fermato in stato di ebbrezza, esatto, si ritira la patente, ma può guidare 3 ore al giorno. A prescindere dal fatto che ritengo che l'inasprimento delle pene doveva essere un deterrente per bere, per cui a questo punto sembra che non lo sia, visto che viene data la possibilità di guidare per 3 ore, penso che comunque a colui che viene ritirata la patente deve presentare al prefetto la domanda per avere questa opportunità. Il prefetto deve controllare se questa persona ha la possibilità di prendere il tram piuttosto che l'autobus o la metropolitana, e se non ha modo per recarsi al lavoro viene rilasciato un documento, e non una patente, un documento che gli permette di andare da casa sua al lavoro e ritornare indietro. Per cui se viene trovato con la macchina in un'altra strada, così per capirsi, sicuramente peggiorerebbe solo la sua situazione. Per cui penso che questo sia l'interpretazione di questo emendamento, anche se ritengo che chi beve non deve guidare e chi guida non deve bere. Grazie Luca da Pordenone. Stavo guardando intanto, quindi questo è uno dei filoni oggi, il codice della strada oppure il burka, insomma, gli argomenti che interessano di più le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ti leggo anche Beppe Tosco, un'agenzia appena uscita in questo momento, sapete che era notizia di stamattina che il ministro dei beni culturali Sandro Bondi non sarà al Festival di Cannes per colpa del film di Sabina Guzzanti, Dracula, La terra, l'Italia trema. E c'è subito una risposta di Jacques Lang, ex ministro della cultura, che arriva dalla Francia. La risposta dice: la decisione di Sandro Bondi di non andare al Festival di Cannes per protesta contro la partecipazione di Sabina Guzzanti col suo film Dracula illustra, dice Jacques Lang, una strana concezione della libertà, mentre la Francia è molto triste che lo Stato italiano non sia rappresentato al Festival. Questa è una notizia battuta adesso. Andrei un altro ascoltatore. Andrea, ad Andrea da Bologna, 800 24 00 24. Andrea? Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Andrea, lo dici? Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, come fosse una cosa d'obbligo da dire così. Poi, è una trasmissione molto bella, complimenti soprattutto a chi la dirige. Sto scherzando, veri. Andrea, ti ringrazio molto. No, faccio complimenti. Dici tutto. È sempre cose molto interessanti, anche perché io mi volevo collegare. Ho sentito stamattina l'intervento, una parte dell'intervento del Presidente della Repubblica, sì, ai familiari delle vittime delle stragi. Sì, perché il giorno della memoria oggi si commemorano appunto tutte le vittime del terrorismo. Perché, credo sì. che sia un ottimo Presidente della Repubblica. Mm. Il problema però si ricollega con quello che ha letto in settimana di quell'inchiesta sul falso attentato al giudice Falcone, Daudario, la villa al mare, mi ricorda ragazzini. E purtroppo ci sono sempre, sembra che in tutte le stragi ci siano i nostri servizi segreti deviati o mica deviati. Comunque c'è sempre lo zampino. Io viviamo in un paese, Repubblica, la guerra è finita da 65 anni, la guerra, cosiddetta guerra fredda, è finita anche quella da 20 anni sì. o qualcosa del genere. In suo modo. Eppure mi sembra, se questa fosse mai una giustificazione per coprire le stragi, io sono anche di Bologna, insomma, ne sappiamo qualcosa. 2 agosto 1980. Sì, sono cose antipatiche quando si mettono le bombe. E abbiamo quindi, questo poi si ricollega con tante cose, ad esempio, forse non ci sono più le mezze stagioni, ma certi personaggi ci sono sempre. Io ero alto un metro e sentivo parlare di Flavio Carboni. Ed è ancora in giro. Cioè, ieri la sentenza sì, del tribunale sentenza, che ha assolto Carboni e gli altri due imputati. Non vorrei parlare, ma credo che sia di nuovo con Anemone, ancora di nuovo la questione. Sì, è indagato anche nella questione degli appalti. Ecco, esatto, allora. Io capisco l'indignazione delle, però forse sarebbe ora di fare pulizia, perché tutte le volte noi abbiamo cosiddetti servitori dello Stato, non mi piace molto come parole, però fedeli alle istituzioni che ci rimettono alla pelle, mi sembra di capire. E qui giustizia viene mai fatta. E le cose proseguono. E questo mi preoccupa un po'. Tutto qua. Grazie Andrea, grazie della tua preoccupazione. E adesso invece volevo chiedere, passando di palle in frasche, tipico qua della trasmissione, a Beppe Tosco. Sì. No? Quindi... che stavo pensando che forse si può risolvere il problema di Bondi se va al festival col burka. Ah, quindi non è riconosciuto, dici, in quel in modo. In qualche quindi modo è presente, non, però ha quel distacco rispetto anche a Guzzanti, quindi prende un po' due piccioni con una fava e non si fa dire dai ministri francesi che fa male non andare, insomma, che l'Italia non è rappresentata. Ma mi interessa anche sapere da te, Beppe, sai che ha sconvolto praticamente l'opinione pubblica, ha fatto il giro del mondo questa foto con Ibrahimovic, i due calciatori, e Piqué, che teneramente sul Corriere.it si tenevano le mani, insomma, erano molto vicini col viso, e allora è diventata una foto sconvolgente, perché come possibile... Non era una foto di due che si ammazzavano, si scannavano sangue, detriti e cose varie, ma invece erano lì molto vicini. Sì, che non si capiva se sono in un'intimità affettuosa, quasi sentimentale, oppure da amici. A te sconvolgono queste cose? No. A me mi sconvolgono. Fanno pari con Totti, che ha dato il pedatone a Balotelli. A me mi sconvolgono perché? Perché ogni volta che io per strada vedo qualcuno che si abbraccia, che siano una donna o un uomo, due donne, due uomini, a me mi sconvolge nel senso che mi riempie proprio il cuore questa cosa. Io di mi soffermo gioia, guardi, immagino, gioia, sì. Di gioia, sì, sì. Perché ormai ci si sconvolge di gioia, visto che così poco si vedono ormai belle immagini, cose. Io mi sconvolgo così. Non so, volevo chiederti, ti vedo bello tranquillo. Comunque, sì, allora, lasciamo nella sua tranquillità Beppe Tosco, 800 24 0024, il numero per i vostri interventi. C'è sempre Giorgio De Luca prontissimo ai telefoni con le sue mille braccia da Dea Calì, e c'è Beppe Tosco sempre con me, autore televisivo, autore comico, l'autore di Luciana Littizzetto, ha scritto È finita la benzina per Mondadori. Un romanzaccio, quindi non so, lo sconsigli caldamente, giusto? Lo sconsiglio caldamente. Allora, Carlo... Andate sul mio sito, che vedete dentro delle cose che riguardano il romanzo e decidete, anche i commenti di chi l'ha letto. Beppe Tosco, quindi... www.beppetosco.it. Carlo da Pisa, che ci dici, Carlo? Carlo Roberto, buongiorno. Buongiorno, Carlo. No, volevo sentire l'opinione del suo ospite, ma sì, il fatto che Berlusconi abbia detto in settimana che in Italia c'è troppa libertà di stampa, a proposito del discorso che avete fatto, della notizia di poco fa che Bondi non va a Cannes, non vi suggerisce nulla? Ma probabilmente vuole arrivare alle 3 ore massimo di libertà di stampa al giorno, come il codice della strada. Come il codice della strada. Cosa c'è di strano? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Grazie Carlo, quindi ecco, abbiamo commentato anche questo intervento di Carlo e io direi, però, attenzione. Noi aspettiamo da troppo tempo qualcosa che non arriva. E di solito, quando ci sono delle colpe, la colpa, voi sapete, è del maggiordomo. Ma io credo di aver individuato il vero colpevole. Questa volta è lui, il colonnello Giuliacci. Colonnello? Ciao Roberta, ma sai che ambasciatore non porta pena, anche se porta vento e pioggia, però nel Medioevo gli tagliavano la testa e questo portava cattive notizie. Potrebbe... quello che dovresti farmi, lo so. Vabbè, dai, almeno i baffi che non hai ti taglierei. Colonnello Giuliacci, diciamo che insomma a questo punto la dose e la misura è colma, è colma, come si dice. Quindi questa primavera la misura è colma, si dice. È sparita la prima, qualcuno l'ha fatta sparire, tornerà. Dove sarà? Ma guarda, io sto proprio accingendomi a scrivere un articolo che credo pubblicherò domani, dove dico secondo me l'estate tarderà ad arrivare, quindi già a maggio si vede che è latitante, no? Quindi adesso parliamo che cosa succederà in questo mese di maggio. Sì. Credibilmente almeno fino alla metà di maggio il tempo resterà così. Ecco, le giornate più belle nei prossimi giorni sono quella odierna, dove già bella non è perché ci sono un po' di nuvole ovunque, no? Ci saranno rovesci sulle Alpi centro-orientali, sulle Venezie, su tutte le regioni del medio-basso Adriatico. Domani, ecco, una giornata discreta, tutto sommato, perché sarà bello su tutto il centro-sud. Un po' di nuvole al nord e qualche piovasco sulle Alpi, piovasche pomeridiane, alternanze schiarite nuovamente, qualche piovasco, Alpi, Torinese, Novarese, qua e là. Sulle dove sta Beppe? Com'è lì? Dalle parti di... Novara? Sì, Chivassese. Per domani sul Novarese prevediamo rovesci, quindi è una delle poche aree sfortunate. Allora non vado a pescare. Ecco, pazienza. Mi dispiace. Ma non poi, prende un granchio. Poi se andiamo a vedere quello che capita la prossima settimana, bene, da lunedì a venerdì, tempo di nuovo piovoso, soprattutto tra il lunedì e il mercoledì. Già giovedì, venerdì migliora un po', ma insomma una situazione ancora di tempo in estate. E credo questo stop and go, cioè migliora, poi peggiora, poi migliora, peggiora, sia destinato ad andare avanti per tutto maggio, e credibilmente ho dei seri motivi per credere che possa essere anche la caratteristica di giugno. Questa si chiama flessibilità, flessibilità. Questa si chiama flessibilità, stop and go, dici, bello e brutto, però ci abituiamo a essere un po' più elastici, un po' in tutti i campi, diciamo. È più scattante. Sì, dai. È vero. Più rassegnati, ecco, in qualche modo. Grazie colonnello, quindi addirittura ti spingi fino a giugno, non potevi tenertela per l'altra volta, la prossima volta le notizie cattive uno le dà in modo diluito, no? Meglio sapere, se fosse al contrario dire meno male l'ho scampata, che si è sbagliato, invece... meno male. Speriamo che ogni tanto colonnello Giuliacci si sbagli. Caro colonnello, comunque sia, caro colonnello Giuliacci, a te un sereno solare fine settimana. Grazie Roberto, a te e a tutti gli ascoltatori e agli ospiti ovviamente, buongiorno. Direi che è il momento di dare, visto che i minuti corrono, prima di Valeria Della Valle che tra poco ci attende al varco, ancora spazio agli ascoltatori, molto brevemente e molto sinteticamente, 800 24 0024, c'è Antonio da Fiuggi? Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno Antonio. Buongiorno anche a Beppe Rosco. Buongiorno. Io facevo una riflessione, a proposito dell'integrazione del burka per quanto riguarda l'Islam o dell'islamico. Sì. Io non riesco a capire una cosa, perché si parla solo di integrazione da parte nostra quando io parto dal presupposto e dico ok, se io vengo a trovarla a casa sua sono io che debbo quantomeno quantomeno portami un dolce, una torta, qualcosa di volentieri, dei fiori, non mancherà. Sì. Però cioè, quello che vorrei dire, sono io che vengo a casa sua e debbo conformarmi secondo il suo modo di essere e non per forza di cose io ad accettare te che arrivi a casa mia magari col burka o con il viso coperto o questo io personalmente non riesco a capirlo per quanto riguarda questo tipo di integrazione. Antonio, ci lasci allora con questa riflessione, Antonio De Fiuggi, e io invece farei riflettere voi, noi e la nostra Valeria Della Valle. perché come ogni settimana le proporrò una parola e lì ti butto, visto che è di estrema attualità, interim, no? Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha preso ad interim il ruolo del Ministro Scajola, visto che si è dimesso. Che ci diciamo di interim, Valeria Cara? Che ci diciamo? Allora, ci diciamo che intanto viene dal latino, questo lo riconosciamo tutto, e in latino interim vuol dire frattanto, nel frattempo, e questa parola latina nell'uso moderno che cosa sta a indicare? Il tempo che intercorre fra il momento in cui qualcuno cessa dall'esercizio di certe funzioni, che siano costituzionali o amministrative, e il momento in cui avviene l'assunzione delle funzioni da parte di un nuovo titolare. Ecco quindi che si parla del ministro ad interim, oppure si usa proprio la parola interim dicendo assumere l'interim. In questo caso il Presidente del Consiglio ha dichiarato che assumerà l'interim, no, in questo caso del Ministero del Ministro dello Sviluppo Economico. Insomma, come al solito, però, se vogliamo trarre anche un piccolo insegnamento, direi la presenza così forte, noi la nostra lingua è la continuazione, no? La nostra lingua non è che deriva dal latino, è proprio la continuazione del latino, in certi casi addirittura il mantenimento di tante parole latine. Allora, una bella continuità attraverso i millenni, e quindi in mezzo a tante notizie che non ci piacciono, una constatazione che ci rasserena, insieme a un'altra per il colonnello Giuliacci: io sono in Maremma e c'è un sole stupendo e siamo in costume tutti a prenderlo. Guarda, Valeria, adesso noi non abbiamo i pomodori da tirarti, però diciamo che ce li procureremo. Grazie Valeria Della Valle, buon sole a te allora. E mentre metto in guardia Beppe Tosco, che tra poco gli chiederò una conclusione, diciamo, di tirare un po' le fila sulle notizie della settimana o su sue riflessioni in questo momento, vi ricordo che saremo al padiglione del 2 del Salone del Libro di Torino dal 13 al 17 maggio, e io con la trasmissione ci sarò il 15 maggio, sabato 15 maggio prossimo, quindi ci sentiremo direttamente da lì. Chiedo a Laura da Firenze di essere talmente sintetica, poco più di un saluto, se mi perdoni Laura, di questo poco tempo, prego. Ci mancherebbe, l'importante. Grazie, è aver Laura. Sentito, aver avuto la possibilità di ascoltare un'altra voce femminile in mezzo a tante voci maschili. Anche proprio per questo volevo intervenire, per quello che riguarda tutte donne orientali che sono costrette ad essere coperte. Sì. Sono sempre gli uomini che parlano anche di questo problema. Appunto. E adesso il problema chiaramente esce fuori in Piemonte, dove vagamente c'è una giunta leghista regionale. Indubbiamente le donne possono scegliere di essere coperte o meno, credo che non scelgano indipendentemente dal loro pensiero. Soprattutto chiediamoci anche quali sono le ripercussioni igienico-sanitarie che portano queste coperture. Ci sono situazioni in cui le donne perdono i capelli perché in effetti non respirano, non traspira la loro pelle. Possono incorrere in incidenti perché sono talmente coperte che non riescono a vedere dove mettono i piedi e spesso sono oggetto di ustioni. Laura, di cosa ti occupi tu? Mi viene una curiosità. Io sono in pensione da pochi mesi e sono un'infermiera volontaria di Croce Rossa e ho conosciuto molte realtà di questo tipo. E quindi avevo colto che c'era una qualche assonanza, insomma, qualcosa di medico, ma anche di profondamente culturale, civile. Grazie Laura da Firenze. E noi a questo punto con Beppe Tosco ci stiamo per salutare. Beppe, una tua massima, una tua minima. Ma guarda, minima, sai che mi viene in mente dagli argomenti di cui abbiamo parlato oggi che la parola che li riunisce tutti è il buon senso. Sembra che manchi il buon senso. Quando si dice lei è ubriaco, però può guidare 3 ore al giorno, manca il buon senso, o non bevi o stai attento, oppure ti fai quei 2 mesi, quel mese senza guidare e impari. E il burka è la stessa cosa. Tra l'altro noi italiani invece abbiamo imparato, sentivo prima, ascoltavo con attenzione il fatto che l'ascoltatore dicesse chi viene da noi deve in qualche modo adeguarsi. E noi italiani invece in questo devo dire siamo bravissimi. Quando andiamo in Polinesia di solito arriviamo là con i mutandini corti e cominciamo a pagare gli aperitivi usando le perline, quindi impariamo subito. Forse si tratta più di villaggi vacanze della realtà polinesiana, però noi all'estero riusciamo ad adeguarsi in fretta. Speriamo che chi viene da noi senza troppa fatica e con qualche piccolo sforzo e lasciando qualche lacuna ogni tanto riesca faccia ad adeguarsi prima o poi, ma sì. È finita la benzina, questa al libro di Beppe Tosco, mentre noi continuiamo, la benzina va avanti, ma il prossimo sabato è dal Salone del Libro di Torino. Da Roberta Giordano, intanto sereni orizzonti a tutti.